Rosalita Catani da Amman in Giordania, dove vive e lavora, invia una corrispondenza drammatica su queste ultime ore dell'Iraq e queste ultime ore che si stanno vivendo, in particolare a Baghdad. Iraq è rivolta, scrive Rosalita Catani, anzi, forse è guerra. La resistenza irachena sta inviando agli occupanti, al mondo intero, un messaggio inequivocabile che dopo 13 mesi di occupazione certamente non può passare inascoltato. A Ramadi questa notte 12 marines americani sono rimasti uccisi e ieri, ricordiamo, a Nassiriya 13 bersaglieri feriti. Tuttavia Rosalita Catani ci illustra anche una breve rassegna stampa del mondo arabo con alcuni dei principali media arabi che non appaiono mai, chissà perché, anzi forse sappiamo bene perché, nelle rassegne stampa delle televisioni e normalmente delle radio nazionali. Al-Dustur, un media giordano, sostiene che la continua occupazione dei paesi islamici non potrà aver ragione sul terrorismo, essa anzi lo rafforzerà e offrirà carburante per continuare a crescere. Al-Watan, che è uno dei più prestigiosi media dell'Arabia Saudita, sostiene che l'intero popolo iracheno è sotto assedio, ma un anno dopo lo scenario ancora non inizia a cambiare. Gli iracheni stanno affrontando le più grandi forze militari della storia con fede ed armi individuali. Al-Arai, che è un altro media giordano, sostiene che queste giornate segneranno drammaticamente il dopoguerra iracheno. In pratica, da oggi nulla potrà essere più come prima in Iraq. Le truppe di occupazione spagnole, affiancate da unità irachene del nuovo corpo di difesa civile, hanno infatti ancora oggi aperto il fuoco sulle manifestazioni di sciiti che manifestavano a Najaf davanti proprio alla base degli ispanici. La situazione in Iraq è davvero incandescente e le ultime notizie sono che sembra reggere la tregua che è stata stabilita dai vertici militari italiani di Nassiriya con le formazioni sciite appunto di Nassiriya. Insomma, che cosa dire a conclusione di questa giornata? Che Berlusconi, Aznar si erano accodati a Bush per vincere, conquistare un territorio, impadronirsi del petrolio. Può darsi benissimo che si accoderanno a una delle più grandi sconfitte del secolo scorso e questo appena incominciato. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.